Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Ultima domenica di settembre e con questa premessa e sperando naturalmente che l'autunno sia meno drammatico di quello che viene a volte anticipato, vista l'emergenza sanitaria che stiamo di nuovo vivendo e che naturalmente si accompagna a quella economica e sociale. E a proposito di questo, il titolo del Sole 24 Ore, che è un virgolettato perché il Sole 24 Ore oggi ha una lunghissima intervista fatta dal direttore Fabio Tamburini, che naturalmente è anche direttore di Radio 24, a Giuseppe Zafarana, che è il comandante generale della Guardia di Finanza. E il virgolettato è questo, e da qui capite perché mi ricollego al tema dell'emergenza sanitaria. Recovery Fund, occasione storica, ma c'è il rischio criminalità. Questo purtroppo è un rischio che è stato paventato fin dall'inizio, perché questa pioggia di miliardi, oltre 200, se già durante l'emergenza, come abbiamo visto più volte in questi mesi, la criminalità ha cercato di approfittare in vari modi delle difficoltà economiche di questo momento, figuriamoci con appunto 200 miliardi da usare per rifondare questo paese. Dice Giuseppe Zafarana, ci deve essere un raccordo con i PM e i prefetti per evitare questi illeciti. E per quanto riguarda la pandemia e l'usura, abbiamo detto proprio di questo, abbiamo parlato più volte, in questo periodo, dice Zafarana, sono raddoppiati i sequestri e il Dipartimento Antievasione mette sotto tiro le frodi cosiddette carosello IVA e le compensazioni. Poi naturalmente anche sul Sole 24 Ore, come su tutti gli altri giornali, la vicenda di cui avete sentito ampiamente nel GR, il cosiddetto caso Tridico. E qui, oltre alla cronaca, a pagina 4 trovate anche questo editoriale che inizia in prima pagina di Guido Gentili, che del Sole 24 Ore è stato anche direttore, intitolato «Una pagina nera nell'emergenza Covid». Come potete immaginare sono tantissimi i commenti e i retroscena sui vari giornali. Queste parole di Guido Gentili mi sembrano particolarmente azzeccate. Scrive: a volte la realtà supera la fantasia. Il caso, portato alla luce da Repubblica, dello stipendio raddoppiato del presidente dell'INPS Pasquale Tridico non solo è uno di questi, è molto di più. Scrive una pagina nera della gestione della cosa pubblica in uno dei momenti più difficili della storia italiana, in piena emergenza Covid. Ed è un caso politico a tutto tondo, nel senso che chiama in causa l'intero governo e non può essere derubricato a una svista passeggera o a un piccolo incidente di percorso, cui si farà magari fronte con qualche soluzione creativa. Bisogna essere chiari. E personalmente la cosa che mi colpisce di più, che forse anche mi fa arrabbiare, è che oggi è il titolo di tutti i giornali. Ma ricorderete sicuramente che circa un mese fa eravamo qui a leggere i titoli sul caso dei rimborsi del bonus Covid, chiesto anche da parlamentari, membri dei consigli delle regioni, tutte persone che hanno stipendi superiori ai 10.000 euro al mese. Ne abbiamo più sentito parlare? No. Allora, la mia paura è semplicemente che questo che... come dice Guido Gentili, è una pagina nera nell'emergenza Covid, resti così il titolo di qualche giorno e che poi verrà rimpiazzato dal prossimo scandalo, dal prossimo esempio di cattiva politica. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche un articolo che poi trovate a pagina 11 di Sissi Bellomo, che riguarda il commercio internazionale. Riparte il traffico, ma i costi per i noli hanno raggiunto livelli record. Gli scambi tornano, il traffico è quello dei container, cioè quello delle grandi spostamenti di merci per mare, quindi per coprire grandi distanze. Gli scambi tornano a correre nonostante il Covid, ma il costo dei noli su alcune tratte è triplicato. E vi dicevo, pagina 2 e 3, questa intervista a Giuseppe Zafarana, del comandante generale della Guardia di Finanza, che appunto dice: monitoraggio attento per evitare alterazioni del mercato e arricchimenti personali, controlli con analisi di rischio, collaborazioni con enti erogatori, procure, prefetture e associazioni di categoria. Capite che questo è veramente un tema che ci riguarda tutti, perché al di là dei toni magari trionfalistici che dicono questa è l'occasione veramente per ripartire, per riformare nel profondo il paese, per dare al paese quelle infrastrutture sulle quali non si è investito, poi appunto bisogna fare i conti soprattutto col fatto che importi simili di denaro scatenano gli appetiti della criminalità organizzata. Corriere della Sera: contagi alti, tornano i timori, questo è il titolo principale, però subito di spalla due articoli che riguardano, uno direttamente e uno indirettamente, l'INPS. L'articolo di Enrico Marro, stipendio più ricco, bufera su Tridico, e poi anche un accenno al fatto che ieri Giuseppe Conte, il premier, espressione del Movimento 5 Stelle, così come è Pasquale Tridico, ha detto in collegamento al Festival dell'Economia che ne era all'oscuro e che cercherà di capire come si è arrivati a questo provvedimento. E poi l'inchiesta, sempre di spalla, richiamata di spalla sul Corriere della Sera, vi dicevo collegata indirettamente, un'inchiesta di Goffredo Buccini e Federico Fubini: chi riceve il reddito di cittadinanza cerca lavoro, in nero però. Perché è collegata? Perché il grande teorico del reddito di cittadinanza, che ne ha messo a punto i dettagli, e sappiamo quante falle ci siano in questa costruzione del reddito di cittadinanza, è proprio Pasquale Tridico. La fotonotizia è dedicata in realtà a un fatto di cronaca che tutti ricordiamo, la strage di Corinaldo nelle Marche, il racconto di una delle vittime è diventato un libro, e Giusy Fasano quindi firma questo racconto, questa anticipazione del libro. La vittima più giovane aveva 14 anni, ricorderete tutto quella strage in discoteca. aveva soltanto 14 anni Emma Fabini, in questa foto è con il padre, un dialogo che è diventato un libro, a scriverlo Fazio Fabini, il papà di Emma, una delle vittime della strage di Corinaldo. Ci sono le lettere di un genitore e le risposte nei quaderni di un adolescente che in questi giorni avrebbe compiuto 16 anni. La Repubblica titola sulla questione di Tridico: INPS, l'imbarazzo del governo. E qui gli articoli interessanti sono due. Da una parte, o meglio, gli articoli, uno non è un articolo, è una lettera. Comunque ci sono due segnalazioni che voglio farvi, una lettera e un articolo. La lettera la scrive lo stesso Pasquale Tridico a Giovanna Vitale, che è l'autrice dell'articolo di ieri. Tra l'altro è la stessa autrice dello scoop, appunto, sui parlamentari che avevano chiesto il bonus Covid. In questa lettera dice: non l'ho deciso io e non prenderò gli arretrati, perché scandalo nello scandalo, l'avete sentito anche nel GR, c'è questa possibilità che non soltanto lo stipendio sia raddoppiato, e certo, come ricorda Pasquale Tridico, ci sono altri super funzionari della pubblica amministrazione che hanno stipendi anche più alti, per esempio il presidente dell'Istat Biangiardo, ma qui siamo in un paese, lo sappiamo tutti, quasi vicino alla deflazione, comunque con un'inflazione bassissima, e si decide di raddoppiarsi lo stipendio, non di ritoccarlo, di raddoppiarlo. Comunque, il passaggio, a parte Giovanna Vitale che risponde, l'articolo riporta fedelmente, l'articolo che ha scritto ieri, riporta fedelmente il contenuto di atti ufficiali, come un decreto interministeriale, perché scandalo nello scandalo nello scandalo, questo aumento è stato deciso da questo decreto interministeriale, cioè porta la firma del ministro del lavoro Nunzia Catalfo, anche lei esponente del Movimento 5 Stelle, e del ministro dell'economia Gualtieri. Ma Tridico dice in questo passaggio: detti compensi sono finanziati attraverso la riduzione di spese di funzionamento di INPS e INAIL, cioè una spending review interna. E qui ci spiega Roberto Perotti a pagina 2 della Repubblica da dove appunto arrivano questi soldi per raddoppiare lo stipendio di Tridico, quei compensi dei vertici finanziati grazie ai tagli sulle cartelle ai pensionati. È stato interrotto il programma che informava sui contributi versati. La Stampa, pronto il piano per il MES, altra grande questione all'interno del governo, sapete, questa, altri fondi che potrebbero arrivare più in fretta di quelli del Recovery Fund, per il quale si parla della seconda metà del 2021, mentre questi sarebbero disponibili praticamente subito, a patto che siano usati per tutto quello che riguarda l'emergenza sanitaria. E c'è poi un'intervista al ministro per le regioni Boccia che dice: Conte resti leader. La fotonotizia però, questa è fantastica, la reazione di Pasquale Tridico, una delle prime reazioni è stata: infangano me per colpire il governo. Parliamo di dati di fatto, cioè è un dato di fatto che Pasquale Tridico abbia uno stipendio raddoppiato, è un dato di fatto che ci sia quel decreto interministeriale, quindi sono veramente difese come sempre in questi casi. Chiedere scusa, dire è sbagliato, no. Infangano me per colpire il governo. La fotonotizia però è dedicata a Donald Trump che ieri, come aveva ampiamente anticipato nei primi giorni di questa settimana, ne abbiamo parlato a Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, ha ufficializzato la sua nomina per colmare quel posto vacante nella Corte Suprema dopo la scomparsa di Ruth Ginsburg. La nomina è Amy Coney Barrett, esattamente come era stato anticipato. Adesso l'ultimo passaggio che manca è l'approvazione da parte del Senato. Trump blinda la corte con la giudice anti-aborto, e poi c'è un commento di Gianni Riotta che trovate a pagina 17: da oggi l'America non è più la stessa. In edicola con La Repubblica, mi sono dimenticata di dirvi l'Espresso, come ogni domenica, che ha una seconda parte di quell'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Monsignor Becciu, e il titolo è: fuori i mercanti dal tempio, centinaia di milioni spariti nei fondi speculativi offshore, affari di famiglia con i soldi delle elemosine per i poveri. L'inchiesta vaticana si concentra sul cardinale Becciu e Papa Francesco ordina pugno di ferro contro i corrotti. Il Messaggero il titolo del Messaggero principale viene da un'intervista a Walter Ricciardi, che è membro del Task Force contro del Comitato Tecnico Scientifico per il coronavirus, ma è anche vice direttore vicario dell'OMS, che dice: emergenza fino a dicembre. E poi quest'altra notizia slegata dall'intervista, o meglio non è una notizia che dà Ricciardi ma che ha il Messaggero: le regioni aprono i centri Covid. In prima pagina sul Messaggero anche una foto che richiama a un fatto che soltanto il Messaggero racconta, che è la morte di una star di Bollywood. Sapete che Bollywood è questo termine che viene usato perché l'industria cinematografica dell'India è forse anche più grande di Hollywood, e quindi Bollywood. Muore una star, Bollywood sotto accusa. È la storia di questo attore, una star appunto nel suo paese, Sushant Singh Rajput, che era fidanzato con un'altra attrice e che ora è stata arrestata perché è accusata di avergli fornito la droga per la quale poi si è procurato un overdose ed è morto. Ultima segnalazione prima della pausa in cui sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo: il quotidiano Domani, che sapete è in edicola da martedì, non di questa settimana ma dal martedì precedente, quindi dal 15 settembre, è una novità nel panorama dei quotidiani italiani. Il titolo di apertura riguarda l'inchiesta in Vaticano. Vaticano sotto inchiesta, ai fratelli del cardinale, parliamo sempre di Angelo Becciu, 1,5 milioni di euro dal petroliere angolano. Il birrificio Becciu finanziato da Antonio Moschito. La Santa Sede nel 2013 tentò di investire 250 milioni in sue società. Tutto regolare, rispondono gli accusati. Ci lasciamo un attimo, come dicevamo, per una breve pausa. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Chivelli, ci mancavano ancora alcune pagine, prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Giorno, gli stipendi d'oro dei boiardi IMSS, perché abbiamo detto lo stipendio lordo del presidente Pasquale Tridico è stato più che raddoppiato a 150.000 euro, ma in realtà, spiega il Giorno, nell'istituto 40 direttori generali guadagnano 240.000 euro. E poi appunto l'aumento a Tridico, rivolta tra i 5 Stelle che si sentono traditi, Di Maio prende le distanze dal vertice dell'ente. E questo è bellissimo, secondo me, perché sapete che Di Maio, e qualcuno prima o poi gliene renderà conto, magari in una diretta televisiva in cui non può svicolare la domanda, Di Maio è il ministro degli esteri con il maggiore costo per il suo ministero. Quindi un'altra contraddizione, se volete, di chi voleva abolire la casta, aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, eccetera, eccetera. Avvenire, profughi da morire. La giornata del migrante di oggi, perché oggi è la giornata del migrante, fu funestata dalla notizia di un grave incidente, forse 111 vittime nel naufragio al largo della Libia, e tra loro anche 4 bambini. E poi Walter Ricciardi, che come tanti esperti è molto, sempre molto attivo sui quotidiani, abbiamo visto intervistato dal Messaggero, ma interviene anche sull'Avvenire. L'Italia tiene sui contagi mentre Europa e Stati Uniti fronteggiano l'emergenza. Il Fatto Quotidiano ha un'apertura diversa, anche se in prima pagina c'è la questione Tridico, che viene però intitolata Fact Checking INPS, perché il Fatto Quotidiano, calcolando quanto costava il precedente presidente dell'INPS Tito Boeri, calcola che alla fine per le casse dello Stato costano la stessa cifra, perché Tito Boeri, essendo residente a Milano, aveva diritto a una serie di rimborsi e anche fondi extra per l'affitto. Appunto, alla fine, trovate tutto a pagina 15, costano uguale. Ma l'apertura vera e propria invece dedicata all'inchiesta che ruota intorno agli commercialisti ed ex commercialisti della Lega, Fatto Quotidiano, la villa con i fondi della Lega Salvini, 311.000 euro in Costa Smeralda. Questo è l'articolo del Foglio, che poi trovate a pagina 6. Il Giornale, Tridico non paga gli italiani ma si raddoppia lo stipendio. Il governo ha firmato l'aumento però finge di non sapere, scoppia il caos. E poi in prima pagina anche la foto è dedicata a Giorgio Armani, perché ieri forse qualcuno di voi l'avrà vista. Per la prima volta nella sua storia Giorgio Armani ha organizzato una sfilata a porte chiuse, che quasi chiude la settimana della moda in corso a Milano, e questa sfilata è stata trasmessa, preceduta da un video racconto con la voce narrante di Pier Francesco Favino, è stata trasmessa in televisione sulla 7. Io per evitare che qualcuno dica che argomento è, vi ricordo, ed è un po' anche il messaggio mi sembra che ha voluto lanciare Giorgio Armani, che le sfilate sono un po' la punta dell'iceberg di questo sistema del tessile, moda, abbigliamento, che è il secondo settore manifatturiero dell'Italia. Vale circa 90 miliardi, dà lavoro solo direttamente a 600.000 persone, quindi capisco che le sfilate possano essere così, possano sembrare un argomento frivolo, ma appunto dietro alla sfilata, la sfilata è il punto di arrivo del lavoro di mesi e mesi di un sistema appunto che ha i numeri che vi ho appena detto. Libero, Santi ladroni in Vaticano, è una sorta di titolo diviso in due. La prima parte, Santi ladroni in Vaticano, altri bonifici sospetti del cardinale punito dal Papa, Angelo Becciu, però i prelati si tengono le case. E l'altra parte, Movimento 5 Stelle ingordo al governo, l'INPS zoppica e il suo presidente si fa triplicare lo stipendio da due ministri. Triplicare un po' troppo, però insomma è un pochino più del doppio. Anche qui la foto è quella di Armani, Daniela Mastro Mattei, poi a pagina 6 racconta di questo incontro che Giorgio Armani ha avuto prima, appunto nel pomeriggio, prima che poi la sfilata venisse trasmessa. E appunto dice, racconta anche, sapete che Giorgio Armani è stato, tra l'altro, all'inizio della pandemia è stato proprio il primo a lanciare questa riflessione, cioè che forse comunque il sistema moda italiano, non solo quello italiano naturalmente ma mondiale, anzi è una critica che riguarda soprattutto la fascia media dell'abbigliamento, ha prodotto troppo e quindi anche ha un po' rovinato oltre ad inquinare il pianeta, perché l'industria della moda è anche una, con i rifiuti tessili, ma anche per i processi produttivi, ha anche un forte impatto sull'ambiente. Dalla prima pagina di Libero vi segnalo un articolo di Alessandra Menzani che parla di questa vicenda, forse l'avrete seguita, forse no, al Grande Fratello VIP. Gabriel Garco ha fatto un mezzo coming out, non ha proprio usato la parola omosessuale, non ha proprio detto sono gay, però lo ha fatto intuire. La seconda parte arriverà durante una puntata di Verissimo, e Alessandra Menzani spiega che per quel coming out, per questa partecipazione al Grande Fratello, Garco ha preso 60.000 euro, e quindi un articolo molto critico intitolato Garco prende 60.000 euro per confessare che è gay. Adesso, al di là del coming out, lo hanno fatto negli ultimi anni tanti attori, specie appunto personaggi del mondo dello spettacolo, io trovo semplicemente che andrebbe rispettato il racconto e sicuramente il dolore che Gabriel Garco, come penso tanti altri omosessuali, hanno vissuto negli anni per non poter vivere liberamente la loro condizione di omosessuali, che è semplicemente un aspetto di una persona, e però evidentemente ancora si sente il bisogno di nasconderlo, perché avrete anche qui, se seguite un po' il mondo dello spettacolo, avrete sicuramente memoria di tutte le finte, possiamo dire a questo punto, fidanzate donne che sono state attribuite a Gabriel Garco per tanti anni. Comunque l'articolo completo, per chi appunto fosse interessato per motivi di costume o per anche, come posso dire, per empatia, a pagina 12, il Garco in tasca 60.000 euro per non dire che è gay. L'attore appare al Grande Fratello, annuncia che svelerà in un altro programma ciò che però lascia intuire. Ormai, questo è il titolo scelto da Libero, dichiararsi è un affare. La Verità. Dopo gli insulti alla Verità, il presidente dell'INPS si è raddoppiato lo stipendio. E poi, su quello che sta succedendo in Vaticano, molto diversa la lettura della Verità, Jorge Bergoglio, il fallimento di un papato. Il Manifesto apre invece sulla scuola. Sapete che negli ultimi due giorni ci sono state tante manifestazioni promosse dai sindacati per far parlare ancora delle difficoltà di fondo che ci sono nella scuola, non solo legate all'emergenza Covid e alla riapertura. Diritti a scuola. Sotto la pioggia romana, insieme al movimento Priorità alla scuola, in Piazza del Popolo genitori, docenti e sindacati denunciano i ritardi del governo sulla riapertura dell'anno scolastico. E poi in prima pagina anche la nomina di cui abbiamo detto, fatta da Trump alla Corte Suprema. E la lettura anche qui del Manifesto è chiara fin dal titolo. Gli USA, la Corte Suprema di Trump, la fanatica antiabortista Amy Coney Barrett al posto della femminista Ruth Ginsburg. Passiamo alle pagine interne e torniamo sul Sole 24 Ore. Vi dicevo, questo interessante articolo di Sissi Belloma, pagina 11, ripresa sprint del traffico merci, ma i costi dei noli sono aumentati, costi record. Le compagnie marittime, riunite in tre alleanze, hanno cancellato 400 viaggi durante la pandemia. Le rotte dal Far East all'Europa rischiano di essere trascurate. I noli verso gli Stati Uniti sono molto più appetibili. Poi la consueta pagina di Sport e Business. Questa settimana l'articolo principale di Marco Bellinazzo si intitola Calcio, volley e basket, aprire fino a 2.500 spettatori. Sapete che è questa la proposta della quale si sta discutendo, cioè una riapertura parziale degli stadi e non solo. Ministero della Salute e Comitato Tecnico Scientifico bocciano però le ordinanze regionali favorevoli al 25% di pubblico nelle arene. Non tutte le regioni hanno emanato queste ordinanze, ce ne sono anzi alcune, in primis il Lazio, per esempio, guidato dal presidente della regione Nicola Zingaretti, che è anche presidente del PD, che ha detto che no, per il Lazio, in particolare poi pensando all'Olimpico, che è uno stadio molto grande, è contrario alla riapertura. L'ultima segnalazione prima della pausa, in cui sentiremo l'aggiornamento sulla viabilità, la sezione Lifestyle, la copertina è a cura di Giovanna Mancini. parla di Milano Design City, che parte domani. È, sapete, il salone del mobile, il più importante appuntamento con il design al mondo. Normalmente si tiene in aprile, come potete immaginare è slittato per il Covid, anzi è proprio saltata l'edizione del 2020, però c'è questa novità e comunque per 2 settimane, una sorta di fiera diffusa per la città, la creatività riparte dalla cultura del progetto. Mentre nella seconda pagina di Lifestyle, Angelo Flaccavento ci racconta tutte le sfilate di ieri, Armani porta la moda in TV a casa di tutti. Noi però ci lasciamo un attimo per la viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori e naturalmente un grazie particolare a chi sta mandando messaggi, WhatsApp al 349-238-6666 o SMS se preferite quelli. La questione Tridico naturalmente suscita molte reazioni. Si può in effetti pensare che 150.000 euro lordi, che poi vuol dire netti circa la metà per il carico fiscale che naturalmente abbiamo in Italia quando si è a reddito fisso, possono non essere tantissimi per un incarico così importante. Ci sono forse due questioni. La prima sono le modalità e il tempismo con il quale è arrivato la decisione di questo aumento, e poi forse che come evidenziano alcuni giornali chiaramente schierati nel centrodestra, forse bisogna anche decidere un aumento quando si è particolarmente efficienti. È comunque un premio, un raddoppio dello stipendio, e purtroppo sappiamo che negli ultimi mesi ci sono state tante inefficienze da parte dell'INPS. Ma la questione è sicuramente complessa. Io posso solo invitarvi a leggere alcuni articoli di approfondimento per farsi un'opinione più completa. Vi dicevo, dal Corriere della Sera, pagina 12 e 13, questa inchiesta interessantissima di Goffredo Buccini e Federico Fubini, tutti i flop dei sussidi. Reddito di cittadinanza, dal turismo all'agricoltura, da Mondragone a Jesolo, gli imprenditori lamentano la difficoltà di trovare manodopera. Per alcuni l'assegno è diventato una doppia risorsa, non si prende perché si è senza lavoro, ma si cerca lavoro nero perché lo si prende. Poi ancora altri approfondimenti che richiamano anche alla seconda parte dell'inchiesta dell'Espresso sul Vaticano, pagina 12 e 13 della Repubblica. Non solo peculato, si allunga la lista delle accuse a Becciu. Poi vi segnalo, molto interessante, l'approfondimento sulla Stampa sull'ex Ilva di Taranto. Avrete notato, non se ne parla più, ma naturalmente non perché la crisi sia risolta. E Giuseppe Salvaggiulo, inviato a Taranto, ci racconta, pagina 5 della Stampa, altiforni spenti e 100 milioni di rosso al mese, così muore la più grande acciaieria d'Europa. Ogni settimana 5.931 cittadini chiedono la chiusura con una lettera al Premier. E tra l'altro, lo sapete, in Puglia ci sono appena state le elezioni. Emiliano è stato rieletto presidente della regione. Forse nei prossimi giorni si ricomincerà a parlare della questione, appunto, ex Ilva di Taranto. Un approfondimento dal Domani, questo nuovo quotidiano appunto diretto da Stefano Feltri, ex giornalista del Fatto Quotidiano. Vi segnalo dall'edizione di oggi un approfondimento su Gianni Infantino, che è il presidente della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio. Il capo del calcio mondiale sorride ma è sotto scacco. Il presidente della FIFA, assediato dalla giustizia svizzera, l'accusa riguarda alcuni incontri segreti con l'ex procuratore generale Michael Lauber, indagato a sua volta per la gestione del cosiddetto FIFA Gate. E poi, prima di passare ai supplementi domenicali, dall'Avvenire un bel approfondimento su uno sport del quale forse non si parla tanto, se ne sarebbe parlato probabilmente in questi mesi e soprattutto in primavera, perché avrebbero dovuto esserci le regate di avvicinamento all'America's Cup, alla quale partecipa anche una barca italiana, Prada, ma un consorzio guidato appunto da Prada, e da qui il nome della barca. E però è comunque uno sport che, oltre a questa grande competizione che è l'America's Cup, ne ha tante altre, e naturalmente è uno sport olimpico. E Marco Nicoliello, a pagina 29 dell'Avvenire, Italia a vele spiegate verso Tokyo. Ma passiamo ai supplementi domenicali nei pochi minuti che ci restano, circa 4, e cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore e dalla domenica del Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Tre nomi, e la citazione è questa: l'uomo possiede tre nomi. Uno è quello che i genitori scelgono, il secondo è quello con cui gli altri lo identificano, il terzo, il più importante, è quello che l'essere umano si costruisce attraverso le sue azioni, e scrive Ravasi. Certo, essere registrati in un'anagrafe è importante, lo sanno bene gli apolidi o coloro che si trascinano senza documenti lungo le rotte drammatiche del mare o delle frontiere, fuggendo da un orizzonte fosco di fame o di guerra o di persecuzione. Ma la trilogia di nomi che la tradizione giudaica delinea nell'aforisma proposto si ricompone secondo un'altra gerarchia di valori che coinvolge tutti noi. Potremmo pensare a un triangolo. I due angoli di base sono occupati dai nomi che ci vengono imposti al momento della nascita o nell'opinione pubblica quando ricopriamo una carica, riceviamo un titolo accademico, siamo insigniti di un'onorificenza. Ma il nome che svetta al vertice a risultare decisivo è quello che costruiamo attraverso il nostro agire, parlare e vivere. Essere chiamati giusti è il nome più alto e decisivo. La copertina vera e propria però è firmata da Antonio Pappato, grande direttore d'orchestra, e fa parte di questa serie di ritratti di celebri compositori. Antonio Pappano ci parla di Giacomo Puccini, affidati appunto dalla domenica a grandi interpreti. Quindi il 12 aprile era Mozart, raccontato da Riccardo Muti; il 17 maggio Paganini, raccontato da Salvatore Accardo; il 28 giugno Mahler, raccontato da Daniele Gatti; e il 23 di agosto Bach, raccontato da Andras Schiff. Dalla domenicale vi segnalo anche una recensione a questo libro che sarà in libreria da martedì 29 settembre, pubblicato da Einaudi, curato da Alberto Rioli, il vice direttore del Sole 24 Ore, che si intitola Proposta per l'Italia, 7 protagonisti dell'economia per il paese di domani. Stiamo tanto discutendo su come usare bene questi 200 e passa miliardi per costruire appunto l'Italia di domani, e qui ci sono i pareri di Silvia Candiani, Andrea Illi, Emma Marcegaglia, Federico Marchetti, Carlo Messina, Renzo Rosso e Marco Tronchetti Provera. 7 voci per rilanciare l'Italia, questa recensione di Giorgio Barba Navaretti. E poi un bel ricordo di Eliana Di Caro, di Rossana Rossanda, che è morta a Roma il 20 settembre scorso, e era nata nel 1924, quando libertà fa rima con complessità. E dal Sole 24 Ore un'altra recensione, in questo caso a cura di Alfredo Sessa, di questo libro pubblicato anche questo da Einaudi, che si intitola La caduta dei campioni, storie di sport tra la gloria e l'abisso, quando il talento è fragile. Nella caduta dei campioni le traiettorie di 10 atleti destinati al successo che, come acrobati sul filo tra la gloria e l'abisso, sono caduti o hanno scelto di cadere. Alias, il supplemento del manifesto, transumanza di parole in versi, ed è una raccolta, la recensione di una raccolta di poesie dell'uruguaiana Ida Vitale. Per la prima volta queste poesie vengono raccolte in Italia. Il titolo del libro è Pellegrino in ascolto, l'ha pubblicato Bompiani. La lettura, come sempre, affida la copertina a un artista, questa settimana è Sergio D'Angelo, e dalle pagine interne vi segnalo in particolare un articolo di Lorenzo Cremonesi, inviato a Beirut. Tra l'altro ieri il nuovo premier designato ha rinunciato all'incarico, ma oltre a questo Lorenzo Cremonesi ci racconta che dopo l'esplosione del 4 agosto, la ricorderete, nel porto, che ha lasciato macerie, la verità, dicono gli osservatori, è che gli abitanti sono frastornati e esausti, e Lorenzo Cremonese appunto raccoglie le voci di alcuni abitanti di Beirut, capitale del Libano. Purtroppo avevo messo da parte tantissime cose, il tempo è finito. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli, un grazie a Filippo Aureggi in regia e un grazie naturalmente a tutti gli ascoltatori. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.